Thank you. Grazie.

La conformazione poi aggiunta nel sangue. La faccia la faccia la violenza non fa proprio da sangue. Perché la faccia di violenza è ben posto in quelle limitazioni che non si rivolgono a noi. Quei denari come sappiamo non si rivolgono alla posizione del gruppo. Concordia tra Corpo Romano e Corpo Romano, oltre alla gente del Cato, comprovano il suo decorale con il suo nome in società. Ma dopo la battaglia, fu la migliore prova sulla predominante di questa città. Il messaggero dell'Anno Cato era preoccupato per stabilire buoni rapporti tra i due domini e assicurare l'unità di una diversa sette religiosa della comunità. Santo Polanyi è messo a grifo, e da ogni verso, l'importanza della conciliazione. Con la sola confusa orale, istanza ultima, passo numero 10, Polanyi potente dice, verità, i tre donati sono fratelli. Ristabilite la confusa tra i vostri fratelli, e ponete a là. Forse vi sarà usata una raccolta. Su questo verso si è attaccata la conciliazione tra i tre versi. Altri versi hanno messo luce sulla necessità di mantenere un buon rapporto tra tutte le truppe, tanto che il ritorno religioso. Nella fine ogni sera, adunque, verso numero 114, lei unico dice. Non c'è nulla di simile ai morti con loro conciliato. Eccezione fatta per chi svolge un'elemosina o una buona azione della riconciliazione tra i morti. Santo Corano chiama anche alla riconciliazione dei coniugi, sposi, ossia musulmani cristiani o ebrei. Non è solo l'invocato, questo punto facendo, altra voce. Se temete la separazione di una coppia, invocate un arbitro della coppia destra o uno della famiglia diversa. Se il coniugi vogliono riconciliarsi, allora stabilirà l'impegno tra loro. Lei sa o ben informato. Anche il messaggero della legge è prescritto alla riconciliazione a poderosa famiglia. E di nuovo hanno altre vite, hanno ricordato, secondo capito A, il profeta di sangue da dentro. Volete che vi informi di un'azione per tutto il mondo, che è la preghiera, e se hanno, scusa, della sede, o non uso la sfondo da fuori, solo per sapere di una legge. La riconciliazione della gente. Opera distante e forme assolute, non è poco. Non rende il potere ma distrugge il mondo. Vale a dire, conferma le qualità fondamentali della religione tra la gente. Cosa che hai da dire? Presentato un po' di messaggio di Ciao. A cui ho dedicato questa cosa a tutti i Thank you.